vicino. Ehi, non risponde quella persona. Quello che stava volando. Tu, la radio va bene questa, sì, che non te l'ho chiesto a te, va bene? Sì, sì, a voi, dai. Ok, dai, te l'ho scelto l'80, così lo faccio andare un po'. Volevo portare Massimiliano per vedere se riesce a uscire come cristiani con quella radio. Sì, dimmi. Che cosa adesso? Non lo so. E chi è che ce l'ha la mantova sul tetto? Ma se non te ne vicchi vicchi, la te ne fai, ma lascia perdere. Una volta che supera quella soglia di anni, te ne fai niente, guarda. Siamo nonché vulcanizzata bene, però purtroppo sappiamo tutti che l'alluminio si marcisce. L'alluminio? Sì, forse è l'unica qua. L'alluminio si rovina. Sì, magari con il natalino, con il natalino sicuramente magari riuscirà a smontarla, boh, chi lo sa. Natali, tu cosa ne dici? Riuscirà a smontarla la tua? Mia nuova, sono io che non posso salire sul tetto, perché ho la gamba messa male. La mia sopra 12 metri di palo, basta farla scendere a 6 metri e mi attivi. Ho capito. Un casino. Speriamo che la mia non abbia danno, speriamo. Claudio, buonasera a tutti. Ehi, Anto, che sono al PC, Nara. Ehi, Asco, non è che c'hai un commutatore a tre, no? Un commutatore a tre? Mi guardi di sito. Sì, ne ho uno della OPEC, di Boxing, 1000 watt, bimbumba, perché ti serve? Sì, ma che non sia di quelli in lamiera, di quelli a coso, ci ha mai capito di quali voglio, di quelli buoni? Sì, sì, questo già è buono, no? È della 30G, questo già è buono, l'avevo preso per mettere su in mansarda, invece non l'ho mai fatto il cambio, capito? Perché volevo fare delle prove su mansarda e commutare le antenne da su a giù, e invece non l'ho mai fatto, perché sennò mi isolo troppo, capito? Ma perché ti serve? Ehi, ne sto cercando uno, ne sto cercando. Quando si può? Non si può, già si può, non si può. Io ero a lavoro stamattina, sono uscito anche domani mattina, devo uscire, devo proprio passare in quella zona, se ti serve ci vediamo e te lo do. Nuovo, non l'ho mai usato, io l'avevo comprato, non solo che ho messo la scatola, ma è nuovo, dentro la bustina. Anda bene. Io sono qua a casa, mi trovi. E allora che vuoi? Non lo so io dove sei, però lo dico a Luca, non lo so, ma che tanto l'avevo pagato questo, 18 euro l'ho pagato, cosa pensi di cui? Perché l'ho preso da una, come si dice, da internet, in una ditta praticamente che ce li aveva, ne abbiamo preso un bel, sembra che ne avevamo preso qualche, una decina, ce li avevamo tutti divisi. Andava. Del presente c'è la bretella. Ma tu dove abiti a mio genero? Io sono di fronte alla bretella, si vede l'antenna, si vede di fronte, si può dire più giù, quasi quando fai la rotatoia, c'è la rotatoia, io devo entrare dentro dove ci sono i palazzi russi. Io giù compreso, però io non ne ho il numero di telefono, me lo passa Luca. Se ce l'hai il numero passi e ti chiamo domani mattina, capito? Ti chiamo domani mattina, perché mio genere abita lì, a Mario, non lo conosce a Mariolino, Farinini. Sì, io sto all'entrata di fronte alla bretella. Mario invece sta dall'altra parte. Esatto, figlio di Angelo. Il povero Angelino. Va bene. Lu, ce l'hai il numero di telefono di Tore, me lo passi? Sì, che ce l'ho. Passamelo, così quando sono sotto lo chiamo, scende e glielo do, capito? Ho la foto, lo vuoi vedere? Facciamo vedere la foto da Claudio, te la mando su WhatsApp. Sì, me la vuoi mandare? Mandamila. Non ha più problemi. Se Claudio mi fa una foto, me la manda, te la spedisco. Sì, ti faccio una foto, ti faccio una foto e te la mando. Aspetta che lo prendo dentro la guardi. Dottore, guarda WhatsApp. E giù. Adesso lo guardo. Bellissimo. Natalio, ci sei? Gliel'hai mandato? Ti piace, to? Quello c'ho io, Quindi zero, io l'ho pagato 18 più la spedizione, ma non mi interessa, non ti faccio pagare niente. 15 euro te lo prendi, se lo vuoi. E ok. Sentiamo domani mattina, mi chiami e mi trovi qua, mi trovi. Oppure vicino alla chiesa, dove vuoi. Io adesso mi faccio mandare il numero da Luca, capito? E così domani mattina te lo passo. Non ne ho altri migliori di quello, però vai tranquillo, che quello lì fa il suo lavoro. È meglio di chi su della 30G, ma chi su chi conta. No, io ce n'ho qua una, due, ce n'ho... Cosa? Se avrei avuto i ricordi, però stavo ordinando, ma ci vogliono un mese, ci vuole per arrivare. E costa 60 euro. Ma lascia perdere, ti ho detto questo fa il suo lavoro. Io l'ho provato e ho visto che fa il suo lavoro, foto. Ti prendi quello lì a tasso zero e vai a un commutatore che funziona. Perché quelli della ZG sono una grandissima cagata. Questi della OPEC e della UXI sono molto buoni, funzionano, fanno il suo lavoro, capito? No, già abbastanza conosciuto quello, lui ha voglia. Perché io me lo so costruito, ma si porta i motori dell'autoclave, mi porta. Perché vuol dire che all'interno non c'ha, non è fatto, non gli hai messo il così. Un condensatorino ci voleva lì nel coso di commutazione. 39 non prende nulla, è 328 iniziale, giù. Sì, è così. Oh, mio genio. Aspetta, ti faccio, allora, vabbè, me lo devo segnare, dai. Poi ti faccio uno squillo, così ti segni anche il mio, ok? Sì, ok, me lo salvo. Eia. Luca. Eia, da qui ti metti d'accordo. Cosa vuol dire Eia? Eia. Ma perché a Riccardino non gli vedeva una canna da pesca, come si deve, da Luca? E va una gozzavona, come te sei il vagio. E non ce l'ha il numero di Luca. E non ce l'ha. Ah, ce l'ha? Ah, no, perché non se la fa fare. Una settimana ce l'ha. Oh, non ne so. Non so cosa dirti, io l'ho detto. Andemmo, andemmo, bobbo. Ma guarda, se si porta su quella lì che c'ha, uscirebbe più forte, uscirebbe. Aspetta. Oh, ti sto chiamando, rispondimi, così te lo memorizzi il mio. Sì. Ha detto a pigliare la ingomma di vostra mamma, la segreteria telefonica. Che è la segreteria, Tore? È quello il numero, ho visualizzato, è quello il numero. Quello è 328, iniziale. E finisce 275, vero, To? Noni, allora segna 328 14 58 278. Come se 275 qua? Ah, tu lo sai? Se lo verifico. Hai segnato? Sì, l'ho corretto. Come se 275 non avevo capito? E che cazzo di numero ti ho dato? No, qua c'è scritto 328, quello che ha detto lui, 278 finale. 278 finale. Perché me l'ha trasportata a 275? Mi già rispondi con 278. Ci mette 275, mi ha detto in questo numero è una pegliana di come devo chiamare. Prego. 3-4. Prego. Scusa, ho messo la antenna, forse sono parati di gigante. Vabbè, e quindi a posto, vai. Luca è? Luca. Giuseppe, tu eri che hai beccato? Mi sono allontanato, Giuseppe. K di Roggero, buonasera a tutti, belli e brutti. Sì, allora ci sono solo i brutti, i belli sono tutti andati via, ci sono solo io. Ti ho sentito, mi sono allontanato a segnarmi il numero di Tore. E allora siamo qui, Ocla, rientrati da Trabacco piano piano e si va. I servizi le riusci? No, negativo, oggi niente, ieri. Ma stai ancora lavorando, sempre là in via del Portatore, sì. È positivo, sì. Sono convinto che sei già andato in pensione anche tu. Magari, te ho d'intendia. E quindi ti hai dedicato a quel anni e mezzo, 2 anni e mezzo a casa, ne ho 60, fatelo un conto. E sto collaborando con la società familiare, appunto, di famiglia, insomma, perché non ci riesco a stare a casa, non c'è niente da fare, non ci riesco, boh. Ma è così, Cla, il discorso è che una persona quando è attiva è inutile cazzo, fermarsi non ce la fai, è così solo io. Perché ho iniziato da piccolino, capito? Sono andato via con 40 anni di servizio, quindi non fa. Non ne avevo nessuna intenzione, ma poi mi chiamava mio cognato, eccetera, e quindi andavo ben volentieri, ho visto che ho ripreso nuovamente il trick e track, capite? Poi stavo andando qua un amico, un giovane track che avevamo anche a scuola assieme, in cantiere, a seguire un po' i lavori qua di condomini, e quindi ho detto, ma sì, riprendiamo, dai, fanno sempre comodo i soldi, e quindi sono nella società di famiglia. E fai bene Cla, ti tieni attivo, qualche soldino in più, come hai detto tu giustamente, a casa non guasta mai. Ma no, va bene, alla grande. Anche per tenermi in movimento, ero da 10 marzo, ne ho ripreso oggi, meno male. C'è l'ufficio di Viale San Francesco, ma un appartamento sempre di famiglia, appartamento. Sono 2 mansarde accoppiate, 250 metri quadri di casa, e lì c'erano gli uffici dell'Edra, della casa di riposo. La sua casa di riposo l'ha venduta mio cognato, e quindi sono rimasti gli uffici e ho fatto un'altra società, e quindi sto collaborando, dai. Siamo qua, già va bene, l'importante è che ci sia qualcosa da fare. E sono perfettamente d'accordo con te, Cla, io lo stesso, io non riesco a stare fermo, sai poi anche quello che faccio oltre il lavoro, e per me va bene così. Sì, vabbè, ti ripeto, sto facendo questo, ma non è che ti posso spiegare molto qua in radio, perché non mi va. Calma, ti dico che cosa faccio esattamente, perché faccio tante cose, va bene. Chi è che c'era qua su questo canale? Nessuno. Giulio era in QRX che era al telefono, io devo usare il numero di torre a posto, domani mattina, intanto sono in zona, devo andare in ufficio per fare alcune commissioni di adesso alla redda, e quindi ci vediamo magazzino lì via Pascolito, sai dove abita Franco Vidi, non so se lo sai, di fronte proprio alla prima rotonda di via Pascoli, prima del chilometro. Ah sì, è lì che si scende sotto, quelli di Puddi, che praticamente è il terreno di Puddi, quindi c'è un bel garage. Il garage abbiamo, dove c'è tutta la attrezzatura, insomma, cosa grande, 70 metri quadri. Mizzega, è quasi quanto l'appartamento. Ci stanno 2 fiorini, più l'Audi A6 di mio cognato, che è grandissima, e più c'è anche tutta l'attrezzatura, capito? È un bel grande. Gatta. Ma è nel palazzo, vabbè, dai, lascia perdere, è meglio discuterne in verticale di queste cose, non mai dare indicazioni precise. No, non te le do quelle indicazioni precise, perché c'è roba dentro, quindi cioè c'è una bella porta, poi vabbè c'è il sistema di telecamera eccetera, però non te lo dico esattamente, già te lo dico adesso. È un bel grande di Puddiche, abbiamo preso la Puddiche. C'è quanto l'ha venduto? 15.000 euro. Cazzo, solo? Li stava svendendo praticamente. L'aveva iniziato con 30, poi era scesa a 25, già me l'aveva proposto a me quando abitavo in via Pasqua. Ho detto no, non me ne faccio niente, io ho tutto su a carbonazzi, non mi ne serve. sera, se ti interessa, c'ho ancora due garage, di cui uno grande, tricorri, quello dove mettevi tu la moto, infatti mettevo la moto io, la moto Franco California, tutti gli amici miei ponevano la moto in Kiwi, me l'ha dato a me e io facevo mettere la moto a tutti. E mi ha detto che lo stava vendendo così, ho chiamato subito mio cognato, ho detto ora c'è un'occasione così, così, la facciamo. Mi ha detto sì, ok, va bene, tanto lo stiamo cercando, il prezzo è buono, grande, grande, ci mi cade un camion dentro. È sceso a vederlo e subito la... abbiamo fatto l'atto, vabbè, c'è stata la società, comunque. Ma bello, grandissimo, grande, c'è l'acqua, la luce, tutto c'è. Eia, e se non sbaglio c'è anche la comodità del cancello elettrico. Sì, il cancello elettrico con telecomando, ce ne ho dato due telecomandi più una piattella, la chiave, non è piattolina, è a chiave. Sì, sì, è di lusso, è di lusso, guarda, poi avere la comodità di avere il posto per sistemare tutta l'attrezzatura, e avete fatto un bingo, veramente. Sì, perché a volte arriva materiale che non usi subito e quindi il camioncino non scende ma non sale, non, perché c'è una rampa un po' ripida, però un autocarro già scende e sale bene, abbiamo già provato e quindi la mettiamo lì, capite? La mettiamo lì, poi ci c'è tutta attrezzatura, trapattelli, insomma cose che servono, vabbè, cose che servono, eccetera. E anche roba d'ufficio, c'è un archivio dell'ufficio. Va bene, e quindi vado lì domani mattina, devo prendere della roba, però prima vado alle via San Francesco. Sono in quella zona tua, KK. E già passa questo periodo, ti vedrai che già passa, giusto, fa pigliato un caffè, già passa. Sì, anche lei l'hanno già confermato per il 1° maggio l'apertura, quindi un bar, no, per il 1° maggio, con le restrizioni normali, come eravamo inizialmente, praticamente a 3-3, non ammucchiati, tavolini larghi, però insomma, c'è la comodità che c'hai il caffè la mattina, la puoi fare colazione. Se vuoi consumare, Giuseppe, più caffè a casa adesso che prima quando andavo tutte le mattine al bar a fare colazione, credimi. Sto consumando pacchi interi di caffè. E si conferma, la stessa cosa qui a casa. Uguale. Ma poi il discorso, ma su tutto, caffè, ma su tutto, perché quando sei così, che sei segregato, cosa fai, Ocla? Stai da una sedia all'altra e stai spizzicando e stai facendo e quasi quasi mi faccio un caffè. Cazzo, ma l'ha giubilato 10 minuti fa, cazzo, ma ne ho di nuovo voglia. E un altro caffè te lo fai e ti fai un'altra spizzicatina. Sembra così, però io ne stavo parlando poco fa con mia moglie, io qualche chiletto l'ho preso di nuovo. No, io ho fatto da bravo e sto continuando a fare da bravo. Perché ho problemi alla schiena, sono stato molto molto male all'inizio dell'anno e sono sceso, ero a 7,5 kg, 8 kg, ma penso che qualche altro l'ho sceso, sto mangiando molto molto sano, molto bene, non sto toccando niente, né acqua gassata, né birra, né vino, niente, nulla, solo acqua naturale e buh, capito, e basta. E quindi sto veramente bene, sto già indossando roba che l'anno scorso non mettevo manco a misericordia, perché altrimenti stando a casa così per me è un casino, io non sono più ragazzino, assimilo tutto e quindi va bene, ok. Sì, adesso il discorso è anche il metabolismo molto più rallentato parecchio e quindi bisogna stare molto molto molto attenti e così. E niente, dai, adesso che siamo rientrati al lavoro facciamo di nuovo da bravi. Mi dispiace solo per tutti i sacrifici che ho fatto, capo, ho perso tutti quei chili, ma piano piano già te ritorniamo, anche perché anch'io mi sono accorto, Clau, quando comincia a perdere 4, 5, 6, 7 chili ed è tutto una caguba, io me ne accorgevo salendo le scale, eppure io faccio due rampe e 5 scalini di scale, niente di particolare. Io me ne stavo accorgendo di tutto, Giuseppe, di tutto, anche nei movimenti, nelle cose. grosso, ma per me è stato molto utile, perché veramente ho dato un taglio a tutto e non uscendo, sai, esci la mattina, trovi l'amico, il collega, e ciao, me, dai a prendere un caffè, magari ti fai un aperitivo, stuzzichi, capito? E porti dentro chili. Invece in questo sistema, stando a casa, ti regoli da casa, è veramente, ho fatto un affare. È vero. Senza contare poi per chi, io già non bevo né birra né vino, non mi interessa. Però ma la schinciola anche il vino. Cazzo, c'è un mio amico Ocla, cazzo, mi dia a cassette di birra, se lo vedi cazzo è una stecca. Ehi, c'è un mio collega, io ci invito ad ambulare, eppure è magro magro. No, ma io non è che la bevo, magari capita, capito? Esci in giro e ti fermi, bevi una cosettina, stuzzichi, le noccioline, io vado matto per le noccioline. Invece veramente in 40 giorni, stando a casa, io non ne ho toccato niente, quindi è così, va bene. Mi sono messo l'impegno, vai Giuseppe, perché non stavo bene, non riuscivo più a fare quello che facevo prima, e allora gli ho detto, facciamo la bravi, se no è un casino. E c'è da ammirare la buona volontà, perché non sono tutti. D'altronde il peccato di è come la sigaretta, amico, come quello che dice cazzo non riesco a smettere di fumare, bisogna fare un attimino un sacrificio, e così è per il mangiare, perché se ti metti in testa una cosa io sono sicuro che ce la fai. Io sono già 19 anni che ho buttato via tutto, sigarette, l'accendino no, perché quello è un regalo che mi ha fatto mio cognato quando è rientrato dall'Iraq, e quello ce l'ho in vetrina, però per il resto ci ho buttato via tutto. Vedi, ce l'hai fatta e va bene, io l'unico vizio che ho è quello, però mi limito tantissimo, ho quella elettronica, a casa fumo quella, magari quando sono in giro, in cantiere o da altre parti me l'accendo, però sempre il molto limitato, non sono, se non ne ho, se a me per dire mi manca la sigaretta a casa, non pensare che mi resta e vada a comprarmela come fa molta gente, non me ne ha fatti nulla, capito? Quindi non sono un grande fumatore accanito, se c'è me la fumo, ma se non c'è non ne chiedo, ecco. Ecco, e lì c'è da ammirare, a chi veniente gatte che quando vede che ha 4 sigarette nel pacchetto già sta girando di testa. No, guarda, io l'ho comprato 3 giorni fa, ancora mi pare ce ne siano 7-8, quindi non è che mi interessi più di tanto, io me la fumo dopo cena, dopo pranzo, dopo cena, magari qualcuna prima di andare a letto se mi trattengo, ma niente di che, anche perché a casa io non fumo, quindi sono qua nella mia stanza, apro la finestra, me la fumo qua, ma da quando ho quell'elettronica, quando mi viene voglia di pippare, tiro quella e ti passa subito il macchino, c'è bisogno di accenderti la sigaretta. Infatti, anche quella già è una buona cosa, aiuta per chi, ti ripeto, per chi ha la volontà di mollarle un po' le sigarette, che sembra così, ma la sigaretta elettronica ti aiuta a dimenticarti del pacchetto, nonostante tutto. Io c'ho quel tabacco, quel liquido leggero, aromatizzato, non ti lascia la bocca cattiva della sigaretta, insomma, ti aiuta, va bene. Perché poi alla fine è un vizio, Giuseppe, è un vizio, capito? Però io riesco a limitarmi, dai, non è un problema. Vediamo un po', ma c'è qualcuno in questo canale che vuole entrare, sì o no? Tu qualcuno hai sentito? Poi, ho sentito Luca poco fa, ho sentito un altro, non so chi fosse, e niente, allora non c'è più nessuno, e vabbè, e che si vuol fare, ciccia, tanto io tra un pochino stacco qua, che vado a dare un colpettino di mano a mia moglie, che tutto il giorno sola, e niente, con la scusa di dargli un colpettino di mano in cucina, ci facciamo una chiacchierata e ci tiriamo la sera. Io la stessa cosa ti dico, non è che sto qua, sono già le 7:20, mia figlia è rientrata poco fa che era al parco, niente, lei riprende la prossima settimana. Giuseppe, ci aggiorniamo più tardi se coincide. Sì, va bene, classe. Nel caso ci sentiamo più tardi, dai. Ci facciamo una chiacchieratina. Buon QRX e buon tutto, dai. Ciao, Cla. Ciao, ciao, Giuseppe. Gabba, gabba. Oh, prova radio. Ma va bene, Lucia, va bene. Una canonata sul microfono. Ma quanto Smith si sblocca, si inceppa, boh, sai cosa capo, va? Ne levo un colpo. No, è strano, boh. No, la radio tua è bella, questa è bella. Bella da combattimento, bella forte. Che beh, che beh. Vediamo un po' se Massimiliano Bulldozer. Massimiliano, ci sei? Io mi allontano, Lugaria, ci sentiamo dopo. Ehi, fa. Ciao? E beh, già. Ehi, sto tornando adesso, usata con Pamiliana, c'avevo un cazzo da grimbare. Si può stare dal cane, perché sempre l'estate. Si conferma, anche io. Ero fuori con il cane. Vabbè, c'ho ancora il pigiama grosso, che c'avevo una maglia a maniche lunghe, cazzo, c'avevo caldo. Oggi sta bene a maglia a maniche corte. Se no niente di vero avrebbe footing, io. Beh, mi sa che questa fase 2 è un casino, eh. Oh, stamattina c'era uno che si è praticamente, ma involontariamente, facendo la fila alle case, si è avvicinato un po' di più a questo tipo tossico, là, che sicuramente era tossico perché dalla faccia si vedeva, e si è comprato solo birra con quel reddito di cittadinanza. Si è avvicinato 6 bottiglie di birra, solo birra. E c'era questo qua che si è avvicinato un po' di più. Cazzo, l'ha presa a parola, ci ha detto di allontanarsi con questa maschera di merda, e gli va via, è nato. Mette tutti i colori. Questo qua è stato zitto, se l'è ritrovato un po' più indietro, è stato zitto. E lui che continuava a dire le cose. Cazzo, ma quando va, io, ma siete strana, cioè come quello che abbiamo incontrato con Giuseppe, Franco, Natalino, questo signore, passa, noi siamo impressati, da cosa? Da Fusaro. E pare che va la lepra, ragazzi. Magari era impressato. E infatti, magari non lo sanno, sono loro che sono. Io ci sto molto attento alla vita, ma questo ragazzo, poveraccio, lo fa male a una mosca. Stavo facendo una spesa per casa sua, ed è anche un bravaccio, e mi sugate lì, quel parcheggiatore, non so se ce l'è presente, che abita vicino a casa, quello robusto. Quello? Che è un po' robusto, dai, un bel po'. Ma lì vicino a casa tua? Sì, abita due portoni più avanti. Ah, ho capito, è un ragazzo, è giovane quello. Sì, giovane, avrà 53-54 anni. Allora è quello che sto dicendo io. Ma quelli si vedevano, erano due tossici, cazzo, si vedeva, c'erano scritte in faccia, per carità, erano tutti quanti schizzati. Io volevo la birra, io. Non vedeva nulla di sconvolgersi in qualche modo. Già. Poveracci, ma coloro lo sanno, va. Sono... Oddio, sono... obbligati, sono obbligati ormai, queste persone ormai sono assuefatte dall'alcol, dalla droga, e poi sono, ma non è la parola, sono, boh, non mi viene. Non so cosa vuoi dire, se ti aiuto io. Oh, yeah. Ma vabbè. Comunque una volta la Simon sono andato perché c'era Manuela che è andata a una festa, era piccolina allora. È andata a una festa di compleanno dove si è mangiato pasticci, cazzo, vado a prenderla per metterla a letto, era tutta piena di urticarie, ma grosse per ome, tutto il corpo ne aveva pieno, e sono andato subito da Simon. E lì ho trovato il mio dottore che deve essere che era in giostra, era mezzo cotto, era in giostra e deve essere stato uscendo da qualche locale. E mi ha detto, dottor, ascolti, no, buongiorno, mi dica, è così e così. Mi ha detto, ascolti, faccia una cosa, ne prenda questa marca di medicina e vedrà che gli passa subito. Sono andato da Simon, cazzo, c'era questo qua dietro di me, che si grattava un capo. Ah, tardi, verso l'una di notte, si grattava un capo, e questa farmacista fa, scusi, lo fa passare? No, gli ho detto, lui fa la fila come gli altri, come una futiluda, io c'ho una fila che è più urgente di lui, delle cazzate che deve fare il c***o. Vabbè, è giusto, ci mancherebbe. E va tu va. E va via la scimmia, cazzo, c'aveva la scimmia perché stava grattando la testa, ma in un modo sproporzionato, mi si era gratta di lunga. Bobo. E lei mi ha detto dopo, vabbè, ma perché quando sono così io li temo. No, ma io non temo, non lo temo. Io sto facendo la fila, cazzo, mia figlia è tutta piena di orticali, se permette prendo prima la medicina per mia figlia che è più urgente. Avanti! Niente, propagazione. Però qua c'è la 45, c'era qualcosa, se non c'è niente. Stamattina sono salito sul tetto a tirarmi il tirante che c'era mollato. E ho trovato giù, ho trovato due... avevo due... come si chiama? Vabbè, due borsetti di quelli per mettere nel tirante, no? E li ho messi. L'ho tirata, poi gli ho messo i morsetti, l'ho tutta quanta una stata, l'ho bruciata in punta perché molti invece non l'avete bruciata. Siccome quando non li bruci in punta e tirati si fanno tutti, si sfilacciano tutti e poi ti si scioglie tutto. Vabbè, certo. Io mi sto mangiando due snack crackers buoni, e quelli dello spi, ma sono buoni a vedo, tipo il Ritz sono. Io mi sono mangiato uno yogurt, dai, uno yogurt da mezzo chilo. E io me lo mangio tranquillo. Buon appetito. Grazie, a 3,80. Cazzo, ho mangiato uno yogurt da mezzo chilo ogni già. Ehi, se mi chiedi me ne mangio due. No, io non ci riuscivo, di prima cerco di mangiare quello piccolo, perché poi io non ne vado matto, sono sincero, poi sono tollerato al lattosio. Ma io lo prendo anche per cura, perché la massa etichetta lo prendo. Per regolarizzare l'intestino. Ah, no, io per esempio non ho questi problemi. Luca, ah, si fa da brutto, si fa. Ciao Otto, quindi non è la prima voce. Ciao già, andiamo dove andiamo. Bobo, e beh, tutto bene. Ciao anche a Marco, dai. E allora, Antonighi? Si tira avanti giorno per giorno. Si convive con questa malasorta. Sì, mi fa di compagnia un cane mio, andiamo a Yeshu, mi fa di 2 chilometri. E anche a me, la stessa cosa. Io ho il coso di uscire con cane, prendo, le faccio passeggiate lunghe e via. E lui fa quello che deve fare. Se c'avevo un pochettino di stomaco, me ne era fatto varà. Avanti break, ho detto avanti break. Ma non perché poi non entrano. Vabbè, avanti Marco. Mi lascio, mi fantasma formaggino. Mi prendi tutto ora che vado a lavarmi le mani. Mi sono dimenticato, sono andato a fare la spesa e mi sono dimenticato a lavarmi le mani, dai. Se no se ne fuggi di Luca. Luca ci si. Vabbè. Grazie, ma niente. Certo che andiamo, ve andiamo. Quasi 80 adesso, Quanto è peso? Ho detto che è peso, quasi 80. Via da te. Io devo rimanere tra 67 e 69. Quando uno va a fame mangia, cosa mi fa? Adesso me lo posso permettere a mangiare qualsiasi cosa, poi quando me lo posso permettere più vuol dire che farò meno. Comunque tante cose non le mangio, tipo la roba fritta che io la acqua, le uova, adesso quella lì non li mangio. Oddio, adesso quella lì. Per le torte, la torta la mettiamo l'uovo, però ogni morte di pappa. Andiamo, andiamo. Luca, dimmi una cosa. Bene, sta uscendo questo microfono, sì? Quella grande, to. Meglio così. Perché si era staccato un filo. Tira via, si era staccato un filo. E non era stava uscendo come doveva uscire. Adesso glielo ho saldato, l'ho messo tutto a posto. È ottimo. E io... 1, 2, 3, prova! Ma senza rubucone in bocca, però! Aspetta! 1, 2, 3, prova, vai! Si sente, mica, c'è il bocone in bocca! Ma sei buono di radio, anche di segnale. Vabbè, sono pastoso, sono pastoso di questi biscotti. Andiamo, andiamo. Va la parte di ghiacciare, va. Cosa già? Ma io stando la parte di ghiacciare, che la parte ci attacca le bucare di dentro. No, ma c'ho l'acqua qua. Vabbè, normale, no? Sono buoni però, sono molto gustosi. Boia, andiamo, boh. Vabbè, adesso domani fai una roba latto con Claudio, no? Cosa? No, attore, sto dicendo, domani fanno quella roba là, domani fate. Ehi, mi chiama quando sto scendendo. E mi fermo io, mi fermo davanti alla chiesa, mi faccio trovare lì. Vabbè, Marcolino. No, pensavo se si dice no, pensavo se fosse deciso di venire a prendere latte. Pensavo di passare a prendere latte a Claudio. Gianni. Sì. Domani mattina ti chiamo perché devo scendere in quella zona che c'ho da fare. E poi devo passare la torre, che devo dare una cosa. E passo anche da te. Ok, mi prendo il mozzo mio, i radiali e quell'antenna. Luca, quell'antenna cosa devi fare? Mica si entra in occhi l'antenna, noi ci più, te lo siamo dicendo, Tenila, la teniamo di scorta? Fai, io subito devi fare, non c'è problema, fai. La teniamo qua, perché è un controsenso come ho detto a Gianni. Se serve a te io te la porto direttamente, non sto a portarla qua, capito? Se a te non ti serve io la porto qua, la metto a posto e si tiene di scorta. Al primo di noi, ripeto, sottolineo di noi, che serve, si può anche dare, se no rimane qua. Tanto io mi devo organizzare e andare a attaccarne quella, ho capito, la Giuseppe, se mi fa salire, se no sarà biglia in luci. Ho peccato con l'antenna di buttata, sprecata, si smonta, si pulisce bene e si conserva. Sì, io adesso vedo, uso sicuramente il mio piantone perché lo voglio aprirlo di nuovo per vedere se c'è il filo staccato. Se c'è il filo staccato io lo rifaccio più grosso, nuovo, e quel piantone nuovo, i radiali sono nuovi, quello stilo di Gianni è buono, l'altro piantone che è qua di Gianni c'è da mettere la spirale, comunque si può tenere di scorta per ogni evenienza. E facciamo così, dai. Ti chiamo domani mattina già, ok? Non presto comunque. Tu sei a casa? Sì, già sono a casa. Sono a casa. Va bene, sei uscito a prenderti le arance? Sì, già sono uscito. Le ho già prese, dai. Ma c'è un caldo da morire qui. Pensa che la manica è lunga, proprio il gallo da gribare. Sì, ha fatto molto caldo oggi. Io ho Filippo tutto il giorno buttato nel poggiolo, nella sua brandina, bello sdraiato, con la tenda abbassata, al fresco, perché dentro casa c'è caldo, infatti sono tutte le finestre aperte. Va bene, dai, così nessuno si fa pulizia e ciccio, almeno non rompo le scatole già. Ti ha più cercato quello là? Ah? No, assolutamente. No, stamattina sono salito, ho tirato il radiale, ho messo anche il coso, praticamente per bloccarlo, e niente, dai, adesso è a posto. Adesso devo comprare gli altri, permettermi, perché così almeno non mollano più e si rabbigliano le luci, come gli altri che ci avevano, che non mollavano dopo tanti anni. È chiaro già, col cavallotto non molla, non te lo stringi. Il nodo quando c'è vento tende un po' ad allentarsi, anche se lo fai bene, però tende ad allentarsi, è fatto bene. Non li tirare molto però, ricordi sempre che ci deve essere il gioco del vento, perché altrimenti è un casino, perché sennò flette troppo, fa troppo forza sopra il palo, capito? Sopra la gravata. Non ci si dice gravata. Gravata, la gravata. La gravata della fumaiola. La gravata, allora. Va bene, domani mattina ti chiamo, dai, così ti porto via quella roba da lì, non rompo le scatole. Io mi faccio queste commissioni, intanto devo passare in via San Francesco in ufficio e poi mi devo avvicinare giù alla Teloccio, quindi sono di strada e la porto via con l'antenna, poi è qua già. E qua si mette a posto. Quando è pronta, se c'è qualcuno dei nostri che ha difficoltà a comprarsela o gli si è rotto. chiamato anche a Giuseppe, ma non vuole mettere antenne grandi. L'avrei regalato a Giuseppe, ma non è vuole di antenne grandi. Poi Luca ha detto che la prendeva lui, ma dice che non ne vuole più. Ma no, Giuseppe no, Giuseppe oramai è su quella linea lì. Luca deve decidere, vabbè, se decide, facciamolo decidere, se decide qua, se decide qua, ok, così la pulisco tutta, la salgo su Massada, la pulisco, la sistemo, si mette tutto assieme, si assembla tutto assieme, un giro di nastro e rimane pronta. Poi, ripeto, se c'è qualcuno che ha necessità, veramente necessità, allora si decide cosa fare. Comunque quello là mi pare che a me ha detto cazzate, perché righe non le può fare adesso che fa i quadrettini oppure sparisce proprio il quadro, diventa nero, quindi non è farmiche adesso, per cui stava dicendo solo cazzate per dire qualcosa in più, perché prima è venuto con la storia dell'antenna che stava piegando troppo, ho detto guarda l'antenna è fatta per quello, non c'è problema, cazzo, ma che anche lo riservo, ma già mi dice da te, ma vedrai che poi vengono a dirti che l'antenna si piega, questo cazzo, mi cade giunto su. Ma quello sa manco cosa sta dicendo, con digitale così come con questi televisori non succede assolutamente niente, non mi vai righi, lo so. Osaccio, perché io quando ho montato questo nella mia stanza qua, in pratica al cavo della TV che ho forato per farlo uscire dal partitore dell'altra stanza, perché qua non ce n'è, l'ho fascettato a quello delle radio per tenerlo fermo, no? Come acceso la televisione ho schiacciato e sei tu vado. Capito? Si è fatto nero proprio così, come hai detto tu. Allora l'ho staccato da lì e l'ho messo dentro sotto il battiscopo, da solo, e non l'ha più fatto. Quindi è un problema di cavi, capito? Ma è normale, ce l'ho qua attaccato al muro, proprio a un metro dalle radio, la TV, perciò qualche rientro potevo anche farlo, ma nel coso tuo non esiste una cosa del genere. Va bene, dai. Così mi scendi anche la scala, mi fa la cortesia che io solo non ce la faccio. La scendiamo insieme e me la porto a casa con la scala, non la lascio. Non mi serve, ne ho posto sul tetto. Tu tra i bombareggi. Ecco. Non ce li hai i soldi, noi dobbiamo fare qualche azione buona a qualche povero. Per lasciarla lì, già me la piazzo io, se non vi serve a voi. Intanto devo andare a prendere e portarla a casa, poi decido cosa devo fare. Ehi, della tua, io sto dicendo a Gianni, se non gli serve. No, è la mia, non è di Gianni. No, il piantone di Gianni sto chiedendo. Il piantone di Gianni è da riparare, il mio invece è nuovo, è solo da aprire e risaldare. Va bene, va, bianco per me. Va bene. Oh, cazzo, come c'è? Bacaridai. Cosa ha detto già? Bacaridai. Allora, se vuoi poco le cose, vai tra i compareggi, ce la vuoi. Lo fai già ti sei. Di solito sei per maloso. No. Ehi, alle basse, fottidini, già le basse, se si è offeso già le basse. Comunque, io la porto qua già, poi il piantone tuo c'è da fare quel lavoro ai radiati. Il mio c'è da aprirlo e sistemarlo. Vediamo un po', una volta che poi sono pronte si decide cosa fare. Ascolta, ma non è meglio mettere la molla di quella lì, metterla nella mia e basta, infatti io se ti sta a fare tanta cosa. Per me è meglio così, li metti quei cosi, quelle, come si chiama? Non mi riuscire il conto. Vabbè, già mi hai capito. E poi li metti il radiale, tutto lì, fate il gioco. Però già sai cosa voglio fare, prima di staccare la molla da quello buono, io voglio mettere le boccolette di alluminio, i cui fori larghi che avete fatto, e provare se il radiale è stabile, se il radiale entra bene e stringe bene, perché se le boccolette non tengono è un casino, i radiali li riperdi. Sistemare quello là. Comunque prima faccio come hai detto tu, sì. prima di mettere, di smontare la molla, metto le boccole in quello là, metto i radiali e li stringo, capito? Quelli in fibra, non quelli in alluminio, quelli in fibra. Se la vite strisce bene, che i radiali sono belli stabili, perché c'hanno anche le cose di plastica che entrano per mantenerlo fermo, se esce un bel lavoro lì, si toglie direttamente la molla da quello mio e si mette in quello tuo, e il gioco è fatto. Sì, perché quell'antenna aveva un euro di stazionale, dopo che l'avevamo regolata, anche senza radiali, con due radiali, aveva 1,1 di stazionale, 1,2 al massimo, sai. Quindi poi la molla si è rotta, magari tirandola, facendola, regolandola si è spaccata, perché prima non era rotta la molla. No, già, non era rotta, forse gliela colpi, era un po' ossidata, ma più che altro è perché la fascetta era ossidata, quindi battendola si è un po' incasinata, capito? Ma le fascette già ce le ho nuove, io ce le ho in acciaio, ce le ho cromate buone, non c'è problema, capito? Vabbè, dai, vediamo, da due già ne faccio una, dai. Vediamo cosa fare, sicuramente è meglio come hai detto tu, metto prima le boccole che è più facile anziché aprire quella là perché è un casino, bisogna togliere il rivetto, aprirla, togliere la vetroresina piano piano, perché quella l'avevo entrata, non entra a forza, era entrata, l'avevo rivigata bene, pulita, rimessa dentro, però sicuramente entrandola, spingendola si è staccato il filo e purtroppo è all'interno e quindi non ce ne siamo accorti. Vabbè, dai. Vediamo cosa fare domani mattina, mi prendo tutto e lo porto qua, poi si pulisce, si sistema e vediamo se serve a Massimiliano, dice che serve a Massimiliano, vediamo cosa fa, se fa da bravo gliela diamo, se no se la abbia in culo. Stavo dicendo, domani mattina devo portare solo il cane, mi fai una telefonata, tanto io sono in zona, se poi anche sono giù, salgo, non c'è problema. Ma io non esco presto, no? Io verso le 8:30, 9:15 porto a Filippo, poi devo andare prima a Viale San Francesco, che devo prendere dei documenti, che devo fare delle fotocopie. Cosa devo fare? Devo passare via Pascoli in garage, prendere del materiale, me lo metto in macchina e poi passo a te all'ultimo, perché prima devo andare da Torre, non mi puoi utilizzare roba in macchina. Passo da Torre, lo lascio una commissione a Torre e poi salendo passo da te, quindi sarà per metà mattinata, già sei a casa. Sì, a quello là dici, metà mattinata ci sono. E io, anche dormendo molto, mi alzo alle 9, non è che sia... E vabbè. Andiamo così, puliamo tutto e non se ne parla più. Adesso mi devo comprare solo i morsetti e per metterli tutti tirati. Boh, basta, non basta. E quelle gravatte, quelle gravattine, quegli occhielli, dai. Esatto. Ah, li devo mettere solo due, tre ne devo mettere, perché gli altri ce li avevo a casa e li ho messi subito. Quello che si è mollato li ho messo subito, l'ho tirato un pochettino. No, ma non sono tirati, li ho lasciati un po', non la bandiera, ma un po' lì, dai. Sì, non li tirare molto già, che sennò fa forza sul tubo, capito? Appena di gioco devo avere il tirante per giostrare col vento, altrimenti fa casino. Capo di Bonnier, e si ugazzo anche per Maloso. Avanti, Luca, Marco, ci sei? Sta mangiando, non senti? Io sto sempre mangiando. Ah, tu sì, non ti avevo riconosciuto, mi sento, oh. Ah, ti sembra te dragonaggio in politica, sempre mangiati, sempre ruminenti. Via, ho i quattro stomaci come i bovini. No, io invece ho mangiato il sushi ieri che mi ha crimbato, mi ha fatto vedere il bruciore di stomaco, non ne mangio più, la bagaglia manda. Tu impari a mangiare la roba cruda. Ma perché ancora mangiando stai? Non avevi finito di mangiare? Fate il giudice. Ciao già. Magna sushi, tu magna che ti rovini lo stomaco. Ah, tampoco era buono. Buono veramente. l'ho comprata da Cocco e ci ho speso anche un bel po' di soldi, sono 60 euro speso. A Cocco Sushi è migliore, prende anche mia figlia lì. Sì, sì, sì, buonissimo lì. Però non lo so se è quello lì o se è il formaggio piccante che avevo mangiato la sera, non lo so, forse che sia anche il formaggio, non ha detto che sia proprio il sushi. Può essere più il formaggio già, il sushi anche se, però non fa male, io quando lo prendo lo stesso, l'ultima volta 75 euro, ci hanno parlato a casa, per fare un raio, infatti mi sono anche diretto con mia figlia, ho detto, come mai vi comprai, questa qua 75 euro, non venuta la mangiare, sì, mangia, mangia, altro che ce n'è da mangiare, già ti sattiasi. Poi ci hanno portato, non so se te lo parlate, vabbè, io ho preso due barche, diciamo, ci hanno portato in Varsovia, però sono due barche, come tu che prendi la barca, lì non c'è la barca che te la rinchiude tutta in Roma. E l'ho preso in vaso di plastica, me l'hanno portato tutto bello confezionato e mi hanno portato anche delle erbe, non so cosa fosse, infatti non è gustatura, è un bel piccante da crepare, quella gialla non so cosa sia, però mi ha crepato, peggio del peperoncino. Io lo so. Ascolta, i gamberi fritti portati italiano, cazzo che buoni che sono. Sì, gamberi fritti, l'anguilla. Un bel buoni sono, voglio fare con il pistacchio, nel poco di roba, una roba buona a me, poi c'è queste salsine buone. La salsa è buona, non quella bianca, ma quella rossa, è un bel buona. È un po' dolce, però rimane un bel saporito, un bel buona. Ehi, ciao, ciao, avanti Natali. Un attimo che sono impegnato qua, sto facendo cose. Vabbè Natali, chiamato hai? Natali. Non rispondi. Claudio. Ehi, ha detto che sta facendo cose, dimmi Marco. Inteso hai, alla GBC, l'8001, 300 euro, 300 euro. Io lo so, si mi ha chiamato Roberto a dare il numero di Natalino, e gli ho dato, l'ha chiamato, infatti me l'ha detto, ma non ne dire neanche, no, volevo chiamare per il video, ma non si vergogna, 300 euro, 8001. Ma se sta dando l'Alan 48 200 euro, non si vergogna. A me me l'ha fatto pagare 2 anni fa, 160 euro, 2 anni fa. Ascolta, e quanto costa l'8001 che non sono aggiornato con lui? 300 euro ne vuole la GBC. No, ma normalmente, a parte il dottore, che c'è la farmacia, quanto costa normalmente? Penso 2,40, 2,60, no Marco? Teia. Però diciamo che mentre tanti anni fa, 15 o 20 anni fa, era tutto componenti classici, era buono, era praticamente dentro c'era una scheda EPT3006 come questa, poi hanno iniziato a fare quelli ibridi, mezzo SMD, mezzo componenti classici, che erano i peggiori. E quello attuale è tutto SMD, però molti sono lamentati, poi alcuni che ce l'hanno sono rimasti contenti, ma alcuni sono rimasti molto ma molto scottati, hanno creato più problemi. Guarda, io l'ho avuto l'8001, vabbè l'avevo poi usato, però funzionava molto bene, poi l'avevo venduto per modificarselo, per modificarlo, capito? E quindi non lo so, però l'avevo preso usato, ma il prezzo l'ho visto intorno ai 240 euro nuovo, quindi avrei 300, figurati, se te lo sto dicendo che è caro della Breda, a me 2 anni fa mi ha fatto pagare, a me, se no 180 euro, mi ha fatto pagare 160 euro l'Alan 48. Vai a vederlo adesso, mi pare che l'Alan 48 in lettere, scritto proprio 48, mi pare che qualcuno lo ha chiesto, roba di 190 euro, un apparecchio MFM 40 canali, ma siamo a pazzi. Allora già costava sulle 100 euro in più quando ho chiesto io l'Alan 48, fatti un conto a Gattugusta, costava quasi 100 euro in più di internet. Sì, 200 euro lo sta vendendo, 200 ne vuole. Capito, ma 160 2 anni fa, sì, il mio c'era scritta Alan 48, 160 euro me l'ha fatto fare, lo stava vendendo a 180, adesso lo sta vendendo a 200. E su Maria, cioè a parità di prezzo non è mille volte meglio un 3009 nuovo? o l'SCB, ma le varie. Sì, ma che paragone. C'è successo, vabbè. Ah, poi qualcuno ha chiesto il 747 alla GBC, 80 euro. Cioè la remetta lì qua che è uguale, io l'avevo pagato 40 euro, più vabbè 8 di spedizione, 80 euro il 747. E su Maria. No, no, no, cioè lui applica il prezzo di listino che ti dice la Midland, di listino, ma online nessuno applica il prezzo di listino perché sarebbe un prezzo fuori mercato. Lui ancora non la compreggia. Vabbè, comunque, contento lui. E poi niente. Vabbè, anche ammettendo che ti facciano pagare 20 euro di spese di spedizione, sono sempre 40 e 20. Ehi, che poi 20 euro sarebbero anche tante, di solito se uno usa un corriere 8, 9 euro, 10 euro fa cocciare 3 per dire, no, qualcuno 12, però 20 è un bel. Guarda, 20 euro ho visto chiederli per antenne 5 ottavi, cioè se ordini un'antenna che già il pacco è lungo un metro o più di un metro, no? Allora 20 euro te li scucciano, dipende dall'onestà del venditore. Adesso con la scusa della crisi, caso strano, anche le spedizioni sono lievitate. Guarda che Pomponi ha preso il Polmar omologato ZX40 Pro, come quello mio, come quello di Natalino, no? Perché è proprio a norma di legge, gli hanno chiesto 23 euro col contrassegno, 23 euro in pari 90 di spedizione, un furto, una ladroneria proprio, una truffa. Io sto cercando il Superstar 3009 col contrassegno, se non me lo mandano in contrassegno non li invito. Ma nuovo? No, sai perché? Allora, la Proxer credo che l'abbia finito, proprio in Italia non lo vendono più. Forse c'è Radio Smitter che lo vende, però è ambiguo perché lui ti dice che 240 canali, quello può che sia o l'omologato, disomologato, o peggio la versione vecchia di 30 anni, no? Se no c'è dalla Spagna, però devi pagare con eBay, come si paga, come si chiama quella cosa di eBay? Uffa! PayPal! Bravo, PayPal. Però è un venditore che ha migliaia di vendite, cioè un venditore affidabile, non è un privato, eh. Beh, e quanto costa? Ciao Po, e quanto costa? Mio figlio mi stava dicendo loro perché non ho capito. Ciao a chi ha detto il giusto termine. Allora Claudio, il 3009, versione omologata, quindi 40 canali 4 watt, dalla Spagna 179,90 più 15 di spedizione dalla Spagna. Certo, non hai garanzia italiana, però cioè è un 3009. Che altro dire? Oh, poi c'è un venditore spagnolo che lo vende a 163 nuovo, con sempre spedizione simile. Ma in Italia non ce n'è. Terminati. Tutti quelli che ce l'avevano, FLQ elettronica, l'ha avuto anche, tutti ce l'avevano quasi. Tutto terminato. Anzi ti dirò che la versione col display blu non la trovi quasi neanche più in Spagna. Ti danno la versione col display rosso. Che blu è bello, io all'inizio ero contrario. Ho detto, oh, questa roba sta azzurra. Invece poi ho imparato a apprezzarlo. È più luminoso dei LED rossi e anche dello Smitter. Qua è tutto blu. Smitter e canali. Appunto, non lo dovevi dare a me. C'è già Natalino in fila che mi sta implorando. Ah, di darglielo, poi gli ho detto Natalino, io ho scremato quello che potevo scremare. Tutti i baracchini, baracchinucoli, che ne so, Midland 548 set, quella roba lì, venduta o regalata. Ho ottenuto i migliori, però da tenere.